Il punto di Stefano Folli. È sempre più diffuso il convincimento che l'Expo 2015, la grandiosa manifestazione internazionale che vedrà al centro Milano e l'Italia, possa essere la metafora della ripresa, anzi più di una metafora, potrà essere l'occasione concreta per restituire impulso economico a una nazione che ha bisogno soprattutto di fiducia in se stessa. Se è così si capisce perché l'accordo per l'occupazione che è stato siglato ieri dai dirigenti dell'Expo con le parti sociali sia tanto importante. La ragione è che esso rappresenta un modello, un paradigma che potrà essere applicato all'intero paese, come ha fatto capire il Presidente del Consiglio. Si sono saltate le lungaggini burocratiche e le riserve corporative. Si è fatto quello che era necessario per dare in tempi brevi un lavoro a migliaia di giovani nell'ambito della manifestazione. E tutto questo per una buona causa, per scommettere sull'uscita dalla crisi. Non è poco.